30 minuti in cronaca di Gigi Donelli. La Francia sarebbe pronta a vendere ai russi la porta elicotteri Mistral. Da Washington i senatori repubblicani vanno al contrattacco e ammoniscono Parigi. L'ipotesi allarma alcuni membri della NATO, in particolare quelli confinanti con la federazione, ma anche paesi come la Georgia, che nell'orbita americana hanno cercato appoggio contro l'ingerenza russa. Siamo preoccupati, scrivono i senatori USA in una lettera all'ambasciatore francese Pierre Vimon. Temiamo che la vendita possa mandare a Mosca il messaggio che la Francia sia favorevole al comportamento sempre più bellicoso e illegittimo della Russia. Missili, navi da guerra, elicotteri Black Hawk per oltre 6 miliardi di dollari da Washington a Taipei, batterie antiaeree, carri armati, sistemi di osservazione per 1,5 miliardi di dollari da Mosca a Tripoli. Il mercato delle armi non conosce crisi, nemmeno nella crisi globale. Buonasera a tutti, bentornati all'appuntamento con 30 minuti in cronaca. Il rapporto appena pubblicato dall'autorevole Istituto Internazionale per gli Studi Strategici di Londra parla chiaro. Il valore dei budget per la difesa a livello globale è aumentato da 930 miliardi di euro a 1.550 miliardi nel periodo compreso tra il 2006 e il 2009 e continuerà a salire anche nell'anno in corso. Nei prossimi anni, tuttavia, si prevede un graduale ribasso. Le spese militari statunitensi hanno infatti probabilmente raggiunto un massimo e i principali paesi industrializzati devono affrontare delle costrizioni finanziarie non indifferenti. Saranno invece le economie emergenti, Brasile, India, Cina, a proseguire nei loro programmi di modernizzazione delle forze armate. Intanto, e arriviamo al nostro tema di questa sera, per sostenere il mercato si infrangono anche barriere storiche e di schieramento. Parigi si appresta dunque a vendere alla Russia un gioiello tecnologico da 2 miliardi di euro che potrebbe cambiare definitivamente gli equilibri nel Mar Nero. Si chiama Mistral. Questa sera, con l'aiuto di Andrea Nativi, che è il direttore della rivista italiana di difesa, partiamo dunque proprio dalla presentazione di questa nave. Allora, Nativi, di che si tratta? Perché il Mistral fa tanto paura? Buonasera a voi. È una nave d'assalto anfibio, quindi è una nave grossa, tra l'altro 200 metri, 16.500 tonnellate, che può svolgere diversi ruoli, compreso quello di nave comando, può intervenire in caso di disastri umanitari, infatti una adesso starà andando verso Haiti, però soprattutto è una nave di proiezione di potenza, perché porta a bordo elicotteri, mezzi blindati, una sessantina, e una forza di fanteria di marina, di Marines, diciamo, di quasi 500 uomini. Quindi è una nave il cui compito principale, come dice il nome, è l'assalto anfibio, una nave sicuramente non per il pattugliamento delle acque costiere. Ecco. Insomma, una vera nave da guerra. Russia's Ministry of Defense is exclusively negotiating the purchase of a large helicopter carrier, the French Mistral. La notizia di questa trattativa ha fatto il giro del mondo. Ecco, in realtà le navi si cedono, si vendono, si scambiano anche all'interno delle flotte. Come mai in particolare l'ipotesi di cessione di Mistral o di uno appunto di queste navi alla flotta russa suscita così tanta reazione? Perché è un tipo di nave specializzata, e la Mistral è un'ottima nave di questo tipo, con ottima tecnologia, che consentirebbe ai russi di colmare uno dei tanti buchi che hanno in termini di tecnologia e capacità militare. Il modo migliore, quando tu non hai qualcosa, è o te lo sviluppi, ma ci vuole tempo e soldi, o te lo compri pronto. Ecco, loro lo vogliono comprare pronto e non ne vogliono comprare una sola, perché una non è che abbia molto significato. Si parla di un minimo di 3 o 4, facendo un conto spannometrico a 500 milioni di euro, poi un po' meno, ma insomma, si vedrà, perché dipende dall'allestimento, è un business da 2 miliardi di euro. Ecco, la stampa russa ha parlato esplicitamente di un budget da 2 miliardi di euro, su cui è intervenuto peraltro anche direttamente il primo ministro, già presidente, uomo, come dire, particolarmente forte, Vladimir Putin. L'interesse è esplicito, sembra che l'accordo possa realmente andare in porto. Ah sì, sì, ma anche i francesi sono molto seri, hanno anche preparato una serie di, mettiamo così, di caveat per indorare la pillola, tipo noi le navi le facciamo in Francia, gliele diamo senza l'elettronica e i sistemi del combattimento, quelli ce li metteranno i russi, la tecnologia la teniamo noi, però è chiaro che quello che conta in una nave di questo tipo non è proprio tanto l'elettronica e l'armamento, quanto la nave in sé e le sue capacità di muovere mezzi, elicotteri, mezzi d'assalto anfibio, bacino galleggiante, tutto quanto, per condurre operazioni appunto d'assalto anfibio. Immaginate due navi di queste in linea con la flotta del Mar Nero, una nuova operazione, un nuovo screzio con la Georgia, ed ecco che due reggimenti di fanteria di marina russa possono sbarcare tranquillamente nei porti georgiani prendendoli d'assalto. Ecco, ecco cosa vuol dire. Come mai la flotta del Mar Nero, che pure il Mar Nero è anche storicamente il luogo delle costruzioni delle navi, certo ora una parte significativa è nel territorio ucraino, ma come mai proprio nel Mar Nero i russi non sono stati capaci di fare quello che appunto il Mestral gli consiglierebbe di fare, cioè di sbarcare truppe armate pesantemente e rapidamente in un territorio diventato ostile? Perché non le hanno più, non le fabbricano più, hanno solamente quelle ereditate dalla Russia URSS, e queste navi in maggior parte sono ormai invecchiate. E un tempo la Russia aveva una flotta d'alto mare, ai tempi in cui l'ammiraglio Gorshkov voleva quasi una parità con gli americani, ma sono tempi lontanissimi. Nonostante tutta la retorica di Putin e compagni, la Russia ha un apparato militare invecchiato, meno capace di un tempo, e non hanno i soldi né per farlo funzionare né per rinnovarlo. Questa è la realtà. Ecco, in questo senso la polemica, il dibattito anche interno alla stessa Russia è stato proprio quello, cioè l'investimento per questo percorso di acquisto di tecnologia sofisticata francese di fatto sarebbe un segnale, come dire, lasciamo perdere con il rinnovamento della nostra struttura di produzione militare. Ma queste sono più polemiche industriali sindacali che militari strategiche. Cioè, se Putin... Ai militari non interessano. Ai militari, come sempre, interessa il prodotto migliore nel tempo più breve al prezzo più basso. Gli statisti decidono in maniera diversa, ma in questo caso, se è una capacità che è considerata urgente e strategica, si vede che anche gli statisti dicono: beh, senti, acquisiamoci questa capacità, facciamo un salto senza svilupparla in casa, e poi concentreremo le nostre risorse in settori più prioritari, perché ovviamente la Russia non si accorge che non è in grado di fare tutto di tutto. E quindi giustamente, non fa una grinza al discorso, cerca di procurarsi fuori quello che ha deciso di non farsi in casa. Ecco, è normale che un paese NATO venda armi di questa qualità e potenza alla Russia? Eh no, è questo il punto, che nel mercato internazionale degli armamenti la Russia c'ha un po' di diciamo nastro rosso attaccato ancora, cioè ci sono delle cose, non siamo più nemici ma non siamo neanche amici, e quindi si cerca di evitare. Ora la Francia è piuttosto disinvolta in questo, già in passato ha venduto per esempio elettronica sia per i carri armati sia per le unità navali, poi c'è una grande collaborazione nell'export, nel senso che un cliente estero compra una piattaforma russa ma non vuole l'elettronica russa e ci mette quella francese o quella israeliana, per intenderci. Ecco, questo, su questo sono abbastanza disinvolti. Ora, vendere però un sistema d'arma completo e di una certa rilevanza, anche fosse solo dimensionale, non è mai accaduto, e quindi sarebbe la caduta di un tabù. Quindi per questo gli americani adesso fanno la voce grossa. E tra l'altro è chiaro che se uno ragiona in termini strategici, può darsi che in un futuro remoto con i russi si debba lavorare per contrastare altre minacce, però Forse è meglio decidere tutti insieme cosa si vende e cosa non si vende. In questo la Francia rivendica la propria libertà di scelta e poi farà quello che vuole valutandone le conseguenze. Ecco, all'interno della NATO, i paesi dunque della NATO sono liberi di vendere, di cedere le proprie appunto armi, e in che modo è regolato, se ammesso che lo sia, il mercato di queste armi, che peraltro, voglio dire, mentre siamo abituati purtroppo all'idea che il mercato delle piccole armi segua percorsi diversi, di certo una nave come il Mistral non passa inosservata. Ah no, no, ha anche un significato strategico e militare ben diverso, anche se devo dire, come accennavo prima, le camere termiche di Thales sui carri russi sono molto gradite dall'armata russa ex. Vabbè, è il punto fondamentale. Aiutaci a capire, camere termiche che cosa sono? Sistemi di puntamento. E sono piuttosto sofisticati quelli francesi e sono finiti sui carri armati russi di ultima generazione. Quindi questo per dire che insomma non siamo di fronte, sì, come dire, c'è un tabù forse nelle dimensioni, ma non certo nel fatto del passaggio di tecnologie sofisticate da una parte all'altra d'Europa. Senza contare che i russi le tecnologie sofisticate tradizionalmente se le prendono anche senza pagare, se possono, cioè non è finita l'era dello spionaggio perché è finita la guerra fredda, anzi ha accelerato, e con il discorso delle tecnologie duali diventa sempre più difficile proteggere ciò che è prezioso. Tecnologie duali significa diciamo distribuite in parte equamente tra il civile e il militare, in particolare è una tendenza che si va affermando nel settore dei satelliti. Per esempio i militari beneficiano enormemente della diffusione dei progressi continui, per esempio dei cellulari, wifi, tutti questi aggeggi poi vengono impiegati per applicazioni net-centriche militari e consentono di risparmiare enormi quantità di denaro. Anche tutti i computer, per esempio nell'informatica, il processo dell'informatica, adesso che sono caduti certi requisiti di protezione specifica militare, si usa quello che si chiama COTS, Commercial Off the Shelf, ovvero sia io compro quello che è disponibile sul mercato, poi lo applico a un prodotto militare. Questo è il passaggio duale, non si riesce più a fermarlo. E un tempo poi c'erano limiti export ben precisi con dei comitati che decidevano cosa si poteva esportare, cosa era strategico e non si poteva, tutto questo è caduto, di fatto ogni paese decide per sé. Insomma, si compra e si vende di tutto. Ci vengono in mente anche alcune manifestazioni proprio qualche mese fa, la flotta russa che viaggia verso il Venezuela, poi naturalmente la questione dei sottomarini, ancora una volta Russia alla Cina, che tanto agitarono i sonni dei responsabili americani. 30 minuti in cronaca. Rieccoci dunque, ancora buonasera da Gigi Donelli. Parliamo di grandi navi, parliamo di commercio di armi, naturalmente di Mistral, questa importante nave che i francesi starebbero per cedere alla Marina russa. Però avevamo anticipato, vorrei chiedere ad Andrea Nativi di aiutarci a fare il punto invece sulla Cavour. La Cavour, quindi l'ammiraglia della flotta italiana in navigazione verso Haiti, ecco, come in qualche modo è in qualche modo comparabile al Mistral? E poi vorrei chiederle, l'Italia potrebbe cedere tecnologie di questo tipo a paesi al di fuori della NATO? Allora, prima cosa, la Cavour è una portaerei, multiruolo finché si vuole, ma è una portaerei, quindi classe diversa, costa 2,5 volte, è 2 volte più grossa in termini di dislocamento. È vero che è una nave polivalente perché per esempio ha un ponte interno dove ci possono mettere mezzi, personale delle forze da sbarco, ma il suo ruolo principale è quello di portaerei, e qui c'è una simmetria, nel senso che i francesi hanno una pessima portaerei a propulsione nucleare che si chiama Charles de Gaulle e che ha 1 miliardo di guai, e però hanno anche le Mistral. Noi invece abbiamo la Cavour e non abbiamo una nave equivalente alla Mistral. La Marina la vorrebbe, anzi ne vorrebbe 2 o 3, e il progetto è fatto, potrebbe anche essere esportata ad altri paesi, vedi che appunto siamo in questo, per esempio interessa l'Algeria, la Turchia, il Sudafrica, forse anche la Malesia. Però adesso noi non abbiamo i quattrini, quindi il programma non è ancora partito. Allora, nave d'assalto anfibio è una cosa, portaerei è un'altra. Noi una portaerei così non la esportiamo certamente alla Russia, però potremmo venderne e vendere navi d'assalto anfibio ad altri paesi che ci sono più vicini, amici, quindi appunto può essere la Turchia, la Malesia, si era parlato di un interesse, c'è un forte interesse indiano, lo sappiamo, noi per esempio con Fincantieri facciamo il sistema di propulsione delle nuove portaerei che faranno gli indiani, e c'era stato anche un pourparlers per una nave tipo Cavour. Quindi certo, l'export nostro è fondamentale, lo è sempre di più, perché la spesa domestica per la difesa è relativamente modesta e quindi per rimanere competitiva ti devi trovare altri mercati. Certo, avessimo il sistema francese di vendita export le cose andrebbero meglio. Cosa significa avere il sistema francese di vendita export? Vuol dire avere un Sarkozy come piazzista e avere il sistema Francia mobilitato dietro il presidente per sostenere le vendite. Per esempio, qual è un grande affare recente? Il pacchetto col Brasile trovo che sia un esempio clamoroso, cioè si va dal impianti nucleari civili, ai sottomarini, agli elicotteri, all'aiuto per far fare al Brasile un sottomarino nucleare improprio, alla realizzazione di cantieri, il tutto con garanzie bancarie dei primari gruppi francesi, con una tabella dei pagamenti e degli anticipi commisurata all'avanzamento dei lavori, la possibilità di Sarkozy di offrire ai brasiliani barter deals, cioè scambi. Tu comprati, il caccia Rafale e l'aeronautica francese si compra il vostro aereo da trasporto. Ecco, tutto questo per l'Italia è ancora fantastico. Un pacchetto da quanti miliardi indicativamente? Andiamo a doppia cifra qui. A doppia cifra. Ecco, la colonna sonora del film Caccia Ottobre Rosso, che credo molti di voi abbiano visto, ci riporta a un aspetto cui Andrea Nativi faceva cenno un momento fa. Sottomarini durante la guerra fredda, soprattutto quelli della dimensione dei tifoni, insomma la flotta russa, la flotta americana che si confrontano nell'Atlantico pronto a sganciare grappoli di testate nucleari l'uno contro l'altro. Qualche tempo fa ci fu una forte polemica che riguardò la possibilità, appunto, la cessione di sottomarini elettrici molto silenziosi dalla Russia alla Cina. La cosa preoccupava in particolare ancora una volta Stati Uniti in chiave di una, diciamo, riduzione delle capacità protettive degli Stati Uniti su Taiwan. I sottomarini sono ancora oggi, quindi nel XXI secolo, la chiave di controllo degli oceani? Sicuramente quasi armi assolute, ce ne sono in giro pochi, ma quei pochi sono davvero micidiali. La flotta russa un tempo ne aveva 300 e più di sottomarini nucleari convenzionali, oggi non più. Comunque i sottomarini russi nell'export vanno ancora molto molto bene e per esempio adesso stanno contrattando con l'India la cessione di un certo numero di battelli nucleari d'attacco, belle navi, e gli altri convenzionali cercano di venderli ovunque, hanno prezzi competitivi e quindi spesso ci riescono, poi ci sono dei clienti che non potrebbero comprare occidentale, quindi comprano il russo. Noi peraltro, diciamo, come tecnologia l'Occidente rimane sicuramente all'avanguardia, nei sottomarini convenzionali i prodotti francesi e tedeschi non hanno paragoni, e infatti sono leader assoluti, soprattutto quelli con i sistemi di propulsione addizionale che trasformano un battello convenzionale quasi in un nucleare, almeno come autonomia. Quindi direi che i russi su questo sono ancora forti. Tra l'altro, piccolo dettaglio, c'era stata un'iniziativa per fare un sottomarino insieme per l'export Italia-Russia, si chiamava S-1000, e ancora viene proposto, però poi insomma alla fine non si è riuscito ad andare avanti, perché soprattutto a parte nostra mancavano un po' di soldi. Ecco, soldi, la sensazione però è che nonostante tutte le crisi il mercato delle armi sia tutt'altro che, come dire, sottotono. Ah, ma assolutamente, infatti chi dice, leggevo per esempio un'analisi di Goldman Sachs che diceva che c'era una riduzione dei mercati domestici nei quali lavora la nostra finmeccanica, ma mica è così, cambia magari la qualità della spesa, ma la spesa continua, perché da un lato c'è chi ha bisogno di armi e di sistemi d'arma a grande tecnologia, per esempio vediamo i paesi del Golfo che hanno paura dell'Iran, oppure il Giappone, la Corea che hanno paura della Cina, la Cina che vuole fare velleità di potenza, l'India che risponde alla Cina e così via. Dall'altro ci sono le guerre in corso che hanno imposto la richiesta per nuovi sistemi, nuove tecnologie per rispondere magari a sfide vecchie. E poi ci sono dei settori del tutto nuovo, per esempio per trasformare il Fante, per noi vorremmo avere in Occidente la stessa superiorità che abbiamo nelle armi a grande tecnologia anche a livello di fanteria. Ecco, per far passare dal dire al fare ci vuole un mare di soldi e di tecnologie, quindi la spesa continua forte, si vende roba diversa magari, ma questo non vuol dire che se ne venda di meno. Ecco, in conclusione direi di ritornare in questi ultimi due minuti almeno idealmente sul Mar Nero. Ecco, sì. L'ipotesi di cessione che seguiremo naturalmente nei prossimi giorni, ma che appare molto solida, delle navi della classe Mistral alla Russia, sarebbe ragionevolmente destinata proprio al Mar Nero o dove potrebbe essere dispiegata questa nave per gli interessi russi naturalmente? Mar Nero subito direi, ma poi anche a nord, ricordiamoci che ci sono contenziosi con paesi baltici non solo, e poi per la flotta del Pacifico, dove comunque la Russia vuole contare, per quello ecco, che ma, vogliono nativi, ma più. L'idea che la Russia possa avere bisogno di una nave francese per regolare contenziosi col Baltico, con dei piccoli stati, una suona... volta che uno si compra la nave poi ci fa quello che vuole, il concetto, uno compra una nave da guerra non per portarci container, quindi quando tu gli vendi una nave da guerra sai che un paese sovrano poi ci farà quel che diavolo gli pare, ma ricordiamoci che anche ai tempi della Seconda Guerra Mondiale ci fu chi vendette aeroplani ai potenziali avversari. Insomma, queste sono scelte veramente a livello di governo, e non dimentichiamo che i rapporti strategici Francia-Russia sono sempre tradizionalmente molto molto forti. Già, sono forti, a volte controversi. La Francia è stato il paese che più degli altri forse si è schierato contro Mosca, contro Putin durante i giorni d'agosto, appunto, delle operazioni militari russe in Georgia. Nello stesso tempo è pronto a cedergli le tecnologie più avanzate che, come ci spiega Andrea Nativi, potrebbero in qualche modo fare la differenza su quei teatri di guerra. Ed è proprio così. Tra l'altro devo dire che la Francia si è opposta strenuamente all'eventuale ingresso dell'Ucraina e della Georgia nella NATO, all'avvicinamento, non era proprio l'ingresso. Ipotesi peraltro che, aggiungo io, per fortuna adesso sono state del tutto accantonate, perché l'Ucraina oltretutto sta ritornando verso l'orbita russa. Vinca chi vinca. La Georgia, pensate che neanche più gli americani sono disposti a fornirgli certi armamenti, mentre l'Israele, che era un altro paese che vendeva la Georgia, ha accettato di non vendere più la Georgia purché la Russia non venda o alla Siria o all'Iran certi equipaggiamenti. Come vedete, oltre ai quattrini contano gli interessi strategici. Insomma, il grande gioco degli scacchi, la Georgia sicuramente è un pedone, non di più. Io ringrazio Andrea Nativi che ci ha aiutato appunto a orientarci in questo mare complesso delle vendite delle armi, e naturalmente a tutti voi anche l'invito magari a tenere d'occhio quando vedrete appunto, quando vi racconteremo della cessione di queste navi, allora avremo possibilità di valutare più pienamente il significato della scelta. Siamo arrivati alla fine di 30 minuti in cronaca, ringrazio ancora Peter Bescapè questa sera in regia, vi ricordo naturalmente radio24.it per questo e tutti gli altri programmi di Radio 24.